Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci! Eccoci qua. Cari amici di Napoli! Lunedì. Oscar ha vaticinato! No, non ho vaticinato. Oscar ha detto due secondi fa... Il Napoli non reggerà. Ma lo dico il perché Napoli io, non reggerà. Io mi augurerei perché che sei terrorizzato, esatto. Da torinista. Ecco, da torinista sono terrorizzato. Hai detto la verità. No, così, ma così. Anch'io sono, anch'io infatti lo dico in maniera superstiziosa. Il Napoli non reggerà. Ma dico, dai Napoli, dai. Però dai, detto, Napoli. Detto questo, noi ogni santo del calendario liturgico preghiamo perché il Napoli ce la non fa. Non è San Gennaro oggi. No, no, oggi non è San sabato Gennaro. Non è San Gennaro. No, però, no. Però faremo in modo dai, che San Ciro. So, adesso ci stiamo inimicando tutti. Tutti gli Juventus d'Italia, tutti gli sono pochi, son mica tanto. Soprattutto, non solo sono numerosi, ma sono potenti. Ah, ai, ai, ai, sono ai, potenti. Ai, lì li tocchi un ambito. Che si dica, che si dica. Allora, comunque, oggi mettetela come volete, consideratelo il patron della linea sconfessata nei 5 Stelle, oppure il patron di chi ha perso le primarie a Milano perché si è diviso sinistra contro Sala, o il patron, quello che volete voi, o dei voti di Cuffaro che vanno al PD in Sicilia perché non c'è più Cuffaro. Comunque oggi è il patrono degli orfani, questo è il punto, è il patrono degli orfani perché è il fondatore San Girolamo Emiliani, è un santo del 500, fondatore dei Padri Somaschi. I Padri Somaschi appunto sono ben noti perché si sono occupati dei bambini senza famiglia, e era la soluzione dell'epoca per la stepchild adoption della Chiesa Cattolica, per così dire, e quindi oggi patrono degli orfani ce ne sono un'infinità, direi, nella politica soprattutto italiana, soprattutto in politica, certamente. Allora 800 24 00 24 sapete il numero per intervenire, se volete parliamo un po' delle primarie di Milano, dove... non di come fare le novene per il Napoli contro il no, prima di Milano, va bene, mi sembra. Dove ha vinto Sala? No, perché questa settimana, parliamoci chiaro, noi politica eccetera, però sarà Sanremo da una parte Sanremo, e Juventus certo. Napoli dall'altra. Noi abbiamo un candidato per Sanremo, bravo, secondo noi la migliore canzone, io le ho ascoltate tutte in anteprima perché per una ragione, vero, per carità, per una ragione di Enrico Ruggeri, di fede, il nostro Enrico Ruggeri. Noi tifiamo Enrico Ruggeri. Noi tifiamo è interista. Enrico Ruggeri e Napoli sabato. È vero, è interista Ruggeri, è capito, interista, però. Ma gli perdoniamo questa cosa. Noi abbiamo Enrico Ruggeri. E invitiamo tutte le persone a votare Enrico Ruggeri. Ma perché Ruggeri, non che si è votano? Candidato alle primarie Enrico Ruggeri? Enrico Ruggeri. Ma dove? A Milano? No, non lo so. Forse perché non firmerebbe la cosa che la stampa scrive viene sottoposta a chi si candida per i 5 Stelle, esatto, a Roma. Esatto, eh? In realtà la cosa che ci ha incuriosito molto è proprio questa. La stampa ha trovato questo documento, Jacopo Iacoboni, per cui ogni candidato che si candida a Roma per il Movimento 5 Stelle deve firmare un decalogo che prevede, tra le altre cose, una penale di 150.000 euro se contraddice evidentemente tutte le regole fissate. Sì, perché sarebbe una clausola di corresponsabilità per il danno arrecato al movimento. Se fa qualcosa che va fuori la linea. Sì, ma, cioè, per esempio, ma se la linea cambia da un giorno all'altro come se l'Unione Civili, come fai? A quel punto dovrebbe essere Casaleggio che ci mette 1,5 miliardi. Ma sai, vabbè, no. per il comune è diverso. Cioè, però, ecco, non diverso. So, se per scegliere qualsiasi staff di comunicazione bisogna prima chiedere a Casaleggio. Questo è il punto. Poi per prendere, per assumere qualsiasi decisione importante per la città bisogna prima riferire tutto a Casaleggio, Beppe Grillo. Cioè, la stampa dice Casaleggio così commissaria il Movimento 5 Stelle a Roma. Però, dunque, siccome il Movimento 5 Stelle a Roma, fino ai sondaggi che abbiamo visto, è predicato per vincere oggi come oggi. E secondo anche me se non, voglio, è ancora no? Ben evidente chi sono i candidati della parte. E allora è una notizia ancora più, tra virgolette, singolare. Sempre ammesso che il documento, io non metto in dubbio naturalmente il documento di cui parla Jacopo Iacoboni sulla stampa, però bisogna vedere se è un'ipotesi o se è reale. Questo facciamo. Beh, ci sono anche le foto del documento. Ho capito, ma un conto è se una cosa che gira, poi un altro conto è se sia poi davvero la linea che viene scelta. Quindi mettiamo un po' di dubbio. Però se fosse così, è la conferma. Quando anche vincessero le elezioni politiche, E quelli degli elettori non dire che si illudono. Se questa è la linea, Casaleggio il governo lo fa a casa sua, poi dopo sì. che c'è il risultato. Sì, io ho sempre avuto però un'idea, caro Oscar, non so se sei d'accordo. Un movimento che non ha una storia politica, un movimento che nasce e politicamente si afferma con le ultime elezioni, sì. con tanti parlamentari, o lo governi così... o se no ti sfugge di mano in una però, maniera totale. Perdonami. Non sto dicendo che è la cosa giusta, no, ma è o lo governi con la frusta... Realismo, questo se non è realismo. Cioè, è un però, movimento dopo che dopo vent'anni passati ricorda. A erigere monumenti di sterco al partito padrone Berlusconi, non è che possiamo dire che siccome non è di Berlusconi, un partito padrone, è un partito padrone al servizio di logiche personali e incontrollate, beh, è meglio, perché è la stessa cosa. Ti ricordo che il portavoce, sai chi è il portavoce, uno dei portavoce del Movimento 5 Stelle? Rocco Casalino, che tutta la gente conosce, insomma, a massimo rispetto, però per dire che non ha una storia politica con dirigenti che si sono formati. Ma è l'anomalia italiana, i partiti padroni nascono dal fatto che noi non abbiamo formazioni politiche eredi delle grandi tradizioni politiche dell'Ottocento e del Novecento. Nel resto d'Europa sono un po' in crisi, anche in altri grandi paesi, però... un sano e forte, grande partito popolare, liberale e moderato, un sano e forte, magari un po' in crisi, partito socialista e così via, e sì. un piccolo o più o meno piccolo movimento liberale storico, questi tre tronconi ci sono. Da noi abbiamo avuto questa cosa anomala della Prima Repubblica con i democristiani e i caudatari vari, e nella Seconda Repubblica solo partiti personali. I partiti sì. personali però coincidono inequivocabilmente con le fortune personali e con i difetti personali. È chiaro. Seguono un po' le parabole. Dopodiché, personali. Come vedi, passano anni a dire alle unioni civili e poi si fanno il conto, all'ultimo secondo non è più il merito del provvedimento, ma facciamo un favore a Renzi, no? Cambiamo idea, perché scopriamo da un sondaggio di Dalimonte che abbiamo gli elettori più a destra di quello che pensiamo. No, comunque è interessante, noi ve lo chiediamo, voi vi candidereste per esempio con questa penale capestro da 150.000 euro? Poi bisogna capire se reggerebbe in tribunale una cosa del genere, perché prima l'avvocato Rienzi ci ha detto alle 6:30, ma io vengo eletto dai cittadini, quindi non è che lo porto in tribunale, nessun giudice mi potrebbe condannare. Sì, ma resta il fatto che ti tirerebbero l'appoggio e non faresti più sindaco comunque. In tribunale magari non paghi 150.000 euro al Casaleggio, ma l'idea è fai il candidato sindaco ma con una cavezza di cui io ho in mano. L'idea è sappi che non sei tu che sei il depositario, è il movimento che tu temporaneamente rappresenti che e ne sei portavoce. Il portavoce dei cittadini e il portavoce di una sola persona. Allora, vedi, capisci che è una contraddizione ad iecto gravissima. Tu hai questa idea. No, questa idea lo dicono loro. Se lo dicono loro e io li prendo in parola, è un conto. Se il portavociato di una sola persona che cambia idea a seconda del sondaggio che legge, benissimo. Secondo me, ripeto, però, o lo controlli così un movimento oppure si spappola e si squaglia nel giro di poco tempo. È chiaro, non è un metro di controllo che mi piaccia tantissimo, perché è un controllo molto occhiuto, diciamo così. Non piace per niente. Anche perché tu fai partecipare la gente, il meetup, la partecipazione, scegliete voi, eccetera, eccetera. Il sottinteso è tutta una farsa. Se come dici tu, è tutta una farsa. Perché il meetup non è in grado di cambiare nulla. L'ultima, la prima e l'ultima, l'alfa e l'omega, la via, la verità e la vita, si chiama Casaleggio. Se è così, capisci che tutto il mito partecipatorio viene liquidato. Calma. Io capisco una via di mezzo, cioè noi teniamo conto del movimento eccetera eccetera su alcune questioni, ma se diventa una cosa così fondativa, io devo firmare un pezzo di carta per candidarmi, in cui devo dei soldi, perché insomma... Sì. Ma anche, non so, alcuni punti, le proposte di nomina di collaboratori dovranno preventivamente essere approvate dallo staff coordinato dai garanti del Movimento 5 Stelle. Come? Cioè c'è un controllo, però si può dire, non è che sei il sindaco e fai quello che vuoi, no? Rispondi sempre a noi. Comunque, come, voglio dire, nella degenerazione della politica che dica Renzi che fa il bullo di fronte ai suoi giovani lupacchiotti, perché dai, tra quello che si vede negli iscritti in Sicilia, tra quello che si vede nel PD in Puglia, il sindaco di Bisceglie che si scrive in massa, il sindaco di Brindisi che viene arrestato e così via. Cioè, i guai di politica ne hanno anche ci sono tanti. Allora, non facciamo finta di non vederle. Vogliamo ascoltarlo, per perché parliamo delle primarie. Renzi ha detto, su questo devo dire, ha ragione, criticate il centrosinistra per le primarie, poi il centrosinistra è l'unico che le fa, insomma, magari con regole che cambiano, magari con le polemiche. Adesso c'è la polemica dei cinesi che hanno votato a Milano, però Renzi si arrabbia così. Tra l'altro sono fantastici e c'hanno sempre da ridire sulle nostre primarie. Quelli che mandano 50 persone a fare click si lamentano delle nostre primarie con migliaia di persone. Bene. Siamo gli unici che abbiamo il coraggio di chiamare la gente a votare. Vabbè, insomma, in più lingue. In più lingue, la polemica perché hanno votato anche i cinesi. Magari chiamano anche quelli degli altri partiti a votare ormai. Sì, ma io non lo so. Cioè, Sala si è arrabbiato a dire: ma scusate, Milano deve essere la città universale che si apre alle diverse lingue, alle diverse razze, alle diverse culture, alle diverse religioni. Una volta che ci sono dei cinesi in fila a votare, la polemica, hanno votato i cinesi. Però ci chiama Carla da Milano, vediamo. Carla, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Eccoci. A tutti e due, siete simpaticissimi. Grazie. Oltre che specie Giannino, mi piacciono le sue sferzate. Comunque. Volevo dire, cosa ha detto Gerillo, che sono andati i cinesi che non sanno neanche parlare l'italiano. Sì, a votare alle primarie, sì. Sì, figurati, io abito nella zona Paolo Sarpi, perciò c'è una town completa. Ma sono tutti bocconiani, ragazzi che più che istruiti, imprenditori, altro che i cinesi. Come dice lui, non sono i cinesi che lavorano nelle cantine o nelle soffitte. Ci raccontiamo per chi non lo sapesse, Paolo Sarpi è la cosiddetta, appunto, come ha detto lei, Chinatown di Milano, comunque una zona ad alta densità cinese. Ma sono tutti imprenditori bocconiani, perché io conosco diverse famiglie cinesi. Cioè, ci sono i cinesi di seconda generazione, quelli integrati, quelli che conosco. Sono andati quelli lì, non di sicuro i poveretti che vanno col carrello a spingere i pacconi. Quindi per lei è una polemica così. Ma no, dai. Lei ha votato, signora? Lei ha votato? No, io non ho votato, so per chi votare, perché Sala mi sembra una persona coerente. Perché non è andata quando votare? Sarà il momento voteremo. Era sicura della vittoria alle primarie, allora era certa della vittoria. Sì, guardi, ero proprio convinta. Vabbè, la ringraziamo, anche se Oscar qui basta fare una somma banale, se Balzani e Maiorino si fossero uniti, d'altronde sono due della giunta attuale a Pisapia, quindi in teoria dovrebbero avere una visione di Milano abbastanza univoca. Se si fossero uniti, uno ha preso il 34, l'altro il 20, Sala ha preso il 42, avrebbero vinto. Infatti il titolo del Corriere, secondo me, sul commento di Nanzio Postiglione, il sindaco, la sindacatura Pisapia chiude per mancanza di eredi, mi pare corretto, ma sono loro che sono divisi però. Si sono divisi, certo, si sono divisi. Quindi... Ma la Balzani infatti ha detto mi è dispiaciuta questa personalizzazione, avevo detto a Maiorino di lasciare da parte le personalizzazioni, come dire. Però Maiorino si era mosso prima di lei. Lei ha avuto l'imprimato, la benedizione, e si è visto che era un cambio di marcia rispetto a Maiorino. In effetti si è visto, anche per le sue proposte, anche se ricordiamolo, aveva promesso entro venerdì di dettagliarci come copriva la sua promessa di dare i bus gratis, e non lo ha fatto, quindi mi dispiace, ma non dobbiamo ricordare. Però detto questo, la sinistra si è divisa e abbiamo Milano che oramai si avvia a celebrare una campagna elettorale, con tutto rispetto per Passera, i cui due front run saranno due city manager entrambi di sindaci di destra, perché questo ha fatto nella vita sia Stefano Parisi con Albertini, sia Sala con la Moratti. Quindi evidentemente anche qui, caro Renzi, inutile negare che fate le primarie, però pescate da tutte le parti, questo è il punto. Cioè, non è che mi puoi dire che Sala vince perché è una prova di salute del PD, e l'ha presa dato che il PD non ha una classe dirigente a Milano. È così, e Pisapia già questo dimostrava, Sala lo dimostra al cubo perché si prende dall'altra parte. E insomma, un po' questo è il fatto. Quello che succede nelle iscrizioni e nei provvedimenti della magistratura nel PD in tanta parte d'Italia dimostra che, oltre che una trasformazione, quella di cui parla Renzi, che ieri ha fatto una battuta dicendo chi fa lo schifiltoso con i voti perde. È vero. Ecco, che non è proprio tradizione PD, prendiamo atto, cambiano le cose, però dimostra anche di avere una grandissima crisi di classe. C'è anche una battuta che circola sulla rete, sai, sui social, a dire: vabbè, Sala ha vinto, allora il centrodestra ha scelto, chi è il candidato di centrosinistra? battuta, ovviamente, però per dire che Sala non è proprio l'allure. Ma vedrai che ci saranno candidati alla sinistra di Sala, perché io non ci credo che famosa unità promessa adesso non ci sarà perché iniziano i mal di pancia. Chi te l'ha detto che la Balzani non si candida? No, la Balzani non credo. però tra SEL, Rifondazione, eccetera, eccetera. Esprimeranno un Civati qualsiasi. Non lo so, Civati qualsiasi, non lo so, però insomma, adesso non essere troppo. No, no, vabbè, ma non lo però dico. Non mi aspetto che finisca lì. Ecco, sì. Questo per essere. Ci chiamano anche Fabrizio da Cuneo. Buongiorno, Fabrizio. Ragazzi, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buona giornata. Allora, senta, no, volevo la vostra opinione su un servizio che avete visto sicuramente ieri sera alle Iene, perché sono. Io sono no, un po' confuso, lo dico ecco, subito. Perfetto, no. Perché, allora, sono un po' confuso dopo quel servizio, ma lo ero già un po' prima, nel senso che premetto, io voto 5 Stelle, o perlomeno votavo fino a ieri sera. Se le spiego perché. Perché, come voi avete visto stamattina, i 5 Stelle tutte le volte che fanno, si candidano, fanno firmare che se uno combina qualcosa, che se uno viene prescritto. Che se... Poi ieri sera mi guardo un servizio delle Iene dove vedo il sindaco di Bagheria, che fa la sua, ha fatto la sua campagna un anno e mezzo fa circa, intervistando, andando per le strade, dicendo che è ora di finirlo con l'abusivismo, lotta all'abusivismo, eccetera. Ieri sera Giulio Goria si reca presso il comune di Bagheria e becca tutti e tre, nel senso sindaco, vice sindaco, assessore, tutto quello 5 Stelle, e sembra pare appunto che dalle carte. Fabrizio, io questo servizio non l'ho visto, quindi che cosa deve dire? Cioè, lei ci sta dicendo che ha fatto un servizio per dire che hanno, che cosa? E hanno praticamente, allora, l'abusivismo non l'hanno tolto, tutte le case dei mafiosi sono ancora lì dove sono state, loro hanno detto che mettevano le ruspe, tiravano giù, non hanno fatto niente, ma la cosa più bella è che il sindaco abita in una casa enorme, abusiva, il vice sindaco in una casa abusiva, costruita con l'abusivismo. Vabbè, e quindi lei dice... Ma non so, e quindi a questo punto qua dico, ma... Allora, o adesso entro oggi e domani il sindaco dà le dimissioni e allora continuo a votare 5 Stelle. Oppure smentirà, non lo so. Vabbè. Insomma, questo al di là del racconto del servizio, per dire che lei è rimasto un po' deluso, ecco, dai lettori. Fabrizio, no, è perché non so, tu l'hai visto, Oscar? Non commentiamo un servizio che non abbiamo visto. No, non ho visto il servizio, però è della vicenda che riguarda questa sindacatura, come di altri sindaci dei 5 Stelle che vengono contestati per o non rispettare il programma e così via, abbiamo letto sui giornali. E quindi la realtà è che quando si tratta di governare e tradurre in atto quello su cui si erano presi i voti, si capisce quanto è difficile in Italia, questo va detto comunque. Quindi qui la storia è che il sindaco 5 aveva firmato questo protocollo di legalità a dicembre 2014, il sindaco 5 risponde a chi lo accusa eccetera eccetera. Detto questo, le case abusive non sono state buttate giù, questo è poco ma è sicuro. E guardate che però, una cosa mi sento dire, non è così facile da quelle parti, ecco. Cioè, un conto è fare campagna elettorale, l'altro conto è farlo davvero. Sono d'accordo. Sentirei Mario che ci chiama da Roma. Mario, buongiorno. Buongiorno, io sono di destra, quindi orfano, contrario pure alla stepchild adoption, quindi non ho speranze. Però no, devo come fare... speranze? Però Giannino, non me ne voglio. Però io volevo fare complimenti al Partito Democratico, perché soprattutto a Milano ha dato la dimostrazione che si possono fare le primarie, e si può fare mobilitazione, non è vero che c'è questa antipolitica. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Questo diciamo è una cosa positiva, pure sta roba dei cinesi un po' ridicola, perché hanno votato Sala, una vergogna, magari votavano la Balzani, l'integrazione, vabbè, ma questa è la solita doppia morale. Io invece volevo fare una riflessione sul Movimento 5 Stelle, che a me sembra un partito che giochi semplicemente sugli altri. Io mi ricordo un po' qualcosa che è nato in Italia nel 1919, e sappiamo come è finita. Allora la domanda è: può un partito che non ha, diciamo, un programma, come ha dimostrato adesso sulle unioni civili, puntare semplicemente allo sfascio? Perché a me sembra tutto un gioco intellettuale di Grillo e Casaleggio, che non hanno però l'obiettivo di andare a vincere, perché quando vanno a vincere, come diceva adesso la persona che ha accennato prima di me, fanno, nella migliore delle ipotesi non fanno una mazza, nella peggiore delle ipotesi fanno disastri. Ma io quello che ho sempre detto, Mario, anche per le grandi città, nulla mi toglie la convinzione che al Movimento 5 Stelle non convinca vincere, non convenga vincere la politica è governare, però lo so, ma altrimenti è un fenomeno di malessere. Non sono un partito, nel senso che non si candidano a governare, non ma cambiano perché i se problemi. Tu tutti ti candidi dicendo arrivo io e sistemo tutto, ma è chiaro che non lo puoi fare, e nel giro di un mese, due mesi, tre mesi, un anno ti ritrovi di fronte vogliamo a vogliamo il suffragio problemi. Universale, se siamo convinti che sia impossibile dare risposte ai problemi, ma io dico che non conviene, ma nel senso che non conviene a loro, ma punteranno alla vittoria oppure a una onorevole sconfitta. No, è più facile criticare, non c'è dubbio. Però esatto. A me piace sottolineare anche del nostro ascoltatore di destra una cosa di cui sono molto convinto. La destra è morta politicamente, ha un encefalogramma piatto, perché incapace di queste cose di cui persino un partito molto diffidente delle scelte che non si facevano nel chiuso delle sue stanze, perché il PD viene dalla tradizione del Partito Comunista, ha capito che bisogna passare per le scelte pubbliche, le primarie e così via. La destra ne è incapace, continua a cedere alla benedizione di un santo monarca dal suo letto di fisiologica protrazione di una leadership finita, per così dire. Non voglio dire a chi ti riferisci, lo dici tu. No, io non lo per chiunque. Ecco, detto questo, è alla fine chiunque capisce chiunque. Di che cosa sto parlando. Però sì. Detto questo, alla fine si sparisce così, sparisce per una devozione popolare a un padre Pio che non fa miracoli. Però tra pochi minuti dobbiamo fermarci, c'è un attimo di pubblicità, è vero. Tra un attimo avremo ospite Fausto Raciti, è il segretario regionale del PD in Sicilia, perché lì c'è la polemica, perché Totò Cuffaro ha detto i miei passano al PD. C'è tutta la polemica, ma come, chi imbarchiamo, chi non imbarchiamo? Bersani dice non imbarchiamo tutti, Renzi Cooper dice non detto, fate schifiltosi. Ce ne usciamo, e anche Veltroni ha detto ieri ai lupacchiotti del PD. Da dove? Però, dall'Africa? No, l'ha detto allo stesso posto da cui abbiamo noi tratto l'audio di Renzi, la nuova scuola di formazione dei giovani del PD. No, però resta il fatto che Renzi ha detto chi fa lo schifiltoso perde. Esatto, tra poco. Sono le 8:44 minuti, caro Oscar. Eccoci qua, nel giorno del Santo degli Orfani abbiamo scoperto che basta toccare alcuni punti molto delicati per suscitare delle fiamme che divampano. Tipo il Movimento 5 Stelle, ma uno non puoi dire liberamente... Oh, noi qua siamo liberi di dire se il PD fa una cosa giusta, lo diciamo, se il PD fa una cazzata, lo diciamo, sempre a nostro parere, ovviamente. Umilissimo. Se il Movimento 5 Stelle fa una cosa giusta, lo diciamo, e così andatevi ante voi la filastrocca, insomma. Lo so, però il problema è che l'uomo in realtà Russo una sola cosa buona l'ha detto, che nasce libero ma dovunque in catene, le ragazzi, catene sono catene. Se critichi il Movimento 5 Stelle sei diventato un disgraziato anti Movimento 5 Stelle, se critichi Renzi sei un gufo, Berlusconi sei un non lo so, non rispetti gli anziani, non rispetti, se critichi la Lega sei un terrone che... No, quella è un'accusa vecchia. Ormai è un partito nazionale. Sei un amico degli immigrati clandestini, direi, se critichi la Lega. Per esempio, qualche critichina anche a quello che sta succedendo nel Partito Democratico con il tesseramento, forse vorremmo avanzarla all'onorevole Fausto Raciti, che è onorevole del PD, ma è anche il segretario regionale del PD in Sicilia. Buongiorno Raciti e benvenuto. Buongiorno. Perché qui, allora, lei ha fatto sospendere il tesseramento, questo è il dato di fatto per il momento, è confermato? No, il tesseramento era già chiuso, io ho semplicemente chiesto una verifica del tesseramento, è un'altra cosa. Sì, cioè verifica perché, che cosa potrebbe scoprire con queste verifiche? Ma verifica per il semplice fatto che vogliamo essere sicuri che il tesseramento sia stato fatto a modo, è una cosa che bisognerebbe fare sempre. Io ho ritenuto, vista anche la polemica e la discussione che si è aperta, che fosse opportuno, come dire, metterci un occhio di attenzione in più, un momento di attenzione in più su questo. Un momento di attenzione in più. C'entrano anche le parole di Totò Cuffaro, Raciti. Cuffaro sappiamo chi è, ex presidente della regione. C'entrano, ma relativamente, perché Cuffaro non è in regista di una occulta operazione di entrismo nel Partito Democratico. Cuffaro fa un'altra riflessione. Cuffaro dice: i miei oggi stanno col PD perché dove volete che stiano, più o meno siamo la stessa cosa. Allora io mi sono sentito semplicemente di rimarcare il fatto che esattamente la stessa cosa non siamo, e che il cuffarismo in Sicilia è stata una pagina brutta, non solo per come si è conclusa, cioè tra le inchieste giudiziarie, ma per il costo sociale che ha scaricato su quella regione, che è un costo che ancora oggi paghiamo. Sì. E quindi insomma, però qualcosa, ma io dal controllo non ho capito delle tessere cosa si potrebbe vincere, cioè c'è un, guardi, che ne so, un boom di tessere in un comune piuttosto che in un altro comune, e per questo, cioè, cosa... Guardi, molti hanno visto questa mia dichiarazione come un modo per dare la caccia ai cuffariani. Ma io non, come dire, non è che chiedo che noi chiediamo all'atto di iscrizione sei stato cuffariano. Quella verifica serve solo a controllare che non ci siano pacchetti di tessere in giro, operazioni, diciamo, poco trasparenti, come sono successe anche nella storia recente del Partito Democratico, e come bisogna evitare che succeda, perché dove ci sono fenomeni di quel tipo poi si innescano anche fenomeni di degenerazione che possono trasformare in qualche modo il Partito Democratico in un'altra cosa. Senta Raciti, io le faccio una domanda che ha a che vedere non tanto con le irregolarità formali, ma con una questione politica, perché in realtà se uno va a vedere le cronache degli ultimi due anni del PD siciliano è evidente che c'è un fenomeno di virgolette entrismo. E io non è che lo mi scandalizza, però facendo l'osservatore politico da decenni... Mi permette di farle notare una differenza? No, aspetti, mi faccio fine la domanda. Io sto dicendo, infatti, per prevenire l'osservazione, che non do un giudizio morale a prescindere, come diceva Totò. Però certo, la storia politica della Sicilia e del Sud mi induce a pormi un interrogativo. Siccome chi a casa non lo sa, faccio qualche nome, no? Cioè, Marco Zambuto... Già UDC, poi PDL, poi di nuovo UDC, presidente regionale del PD dopo la folgorazione ronziana. Mettiamolo là, tante polemiche, però tanto una storia. Nello Di Pasquale, ex Berlusconiano di Ferro, sindaco PDL di Ragusa, e anche lì diventa PDino. Giovanni Di Giacinto, Grande Sud di Gianfranco Miccichè, più a destra di Forza Italia a un certo punto, poi il megafono, cioè stiamo parlando della lista, quindi dell'attuale presidente, che anche lui cambia spesso idea, della regione Sicilia, poi PD, non è PD, qui ero informato male, però Paolo Ruggirello era candidato con Musumeci, pure lui, stiamo parlando di destra ex Messina, e che si avvicina, Luca San Martino, Valeria Sudano, Raffaele Nicotra, ex UDC, Alice Anselmo, cioè sono tanti, quindi un entrismo politico c'è nei confronti del PD siciliano. Le vicende politiche della giunta regionale siciliana, lasciamo da perdere, sono complicatissime per chi non è siciliano, però la mia domanda è tutto vagliato con assoluta adesione al programma del PD, o è la presa d'atto del fatto che quando si governa, come capitava quando governavano altri, alla fine nel sud, in Sicilia, come in Puglia, eccetera, eccetera, questi fenomeni di entrismo ci sono e sono massicci? Perché alla fine, quando ieri nell'intervista Cuffaro diceva: ma non è che io voto PD, ma molti dei miei, poiché questi governano, vanno lì. Beh, io credo che dicendo questo Cuffaro non dica una cosa che non si sia vista in tutti questi nomi che facevo prima, ce ne sono molti altri. Dov'è l'errore, se le faccio questa domanda? Guardi, l'errore è che parliamo di due cose diverse, nel senso che un conto, io credo, sia allargare il Partito Democratico, consentire a persone che hanno fatto pure un percorso con noi dentro questa legislatura di partecipare direttamente alla sua vita dentro un quadro chiaro di regole, dentro un patto politico anche esplicito, dentro un'adesione ai nostri valori, alle nostre battaglie, dentro un riconoscimento al PD. Un altro conto è quello che lei chiama entrismo, cioè un fenomeno che è diffuso, è il rischio di un fenomeno diffuso nel quale non si entra nel PD alla luce del sole dopo una discussione politica chiara. Queste sono persone con cui noi, le faccio un esempio, abbiamo fatto insieme la battaglia delle elezioni europee anche in posizioni molto difficili. Un altro conto sono gruppi o interessi organizzati che provano a fare scalate del Partito Democratico, che pensano di potersi muovere acquisendo pacchetti che... Però ciascuno di questi esponenti ci è venuto fortissimo di voti che beccavano le elezioni, non è che si iscrivono solo loro, è ovvio che l'entrismo delle loro truppe elettorali c'è. Alla fine, nel lungo periodo, la storia ci ha dimostrato che questa roba ha cambiato la natura dei partiti in Sicilia. Io penso che questa cosa, che questo fenomeno di allargamento, che, di cui anche io sono stato protagonista, lo so. È un fenomeno che va... governato, va guidato, va costruito nel tempo, ma un conto è che sia il PD a guidare un processo di allargamento, Un altro è che non subisca una trasformazione nella quale, siccome siamo tutti gli stessi, allora quello che prima si faceva con Cuffaro oggi si può fare col PD. Questo io credo, cioè, l'idea, se che il non sia né possa essere. Cioè, se il partito, il PD, lo governa dall'alto, è una scelta legittima. Se lo subisce con l'intruppamento dal basso, è una cosa. Il problema è tenere la confusione ancora. La confusione, peggio. Cioè, in un clima in cui non si capisce più che cosa è il PD, qual è il suo, sì, qual esatto. è il suo confine. Glielo dice uno aperto, non chiuso, certo, su posizioni settarie. Sì. No, ma noi intanto la ringraziamo, Fausto Raciti, grazie perché ci ha chiarito alcuni e punti. E ha accettato anche di parlarne esplicitamente, col PD pugliese non ci riusciamo. No, è col PD pugliese da giorni, ma insomma pare che, soprattutto lì dove c'è stata la folgorazione sulla via di Bisceglie, no? Sono tutti passati, dopo che il sindaco è passato al PD, perché, scusate, tutti consiglieri, assessori, Emiliano, tutti iscritti che tutti al rispettiamo al PD. Qui, il presidente della regione, nonché ancora segretario regionale, dice il sindaco ha arrestato le Brindisi e quello di Bisceglie che si scrive sono tutti i miei nemici, ma il problema non è lo sapevamo sapere, da un anno, sì, lo ma sapevamo se sono da nemici un anno. O amici di Emiliano, sono nemici, nessuna difficoltà. Se hanno a che fare col partito. Il problema è capire anche lì cosa sta succedendo. Lì c'è una storia secolare. Salvemini scriveva contro i partiti di governo che diventavano i partiti, li chiamava i neomazzieri di governo. Sta diventando il PD quello che Salvemini criticava dalla Puglia dei Giolittiani. Non so, Gemma da Salerno ci sta, se sta in 10 secondi per cortesia, Gemma, che stiamo chiudendo. Sì. Volevo dire a Milan e a Giannino che siamo noi. Sì. Mi ascoltate? Sì, certo, siamo noi. Che voi, così onesti nelle vostre analisi politiche, dovreste fare almeno un piccolo riferimento al fatto che De Luca è stato assolto dall'accusa di abuso di ufficio, che aveva fatto cosa, che aveva fatto scattare la legge Severino. Va bene, no, i 10 secondi sono finiti. L'ha fatto lei, ma l'ha detto, ma giusto, è stato assolto. La ringraziamo. È vero, è caduta la Severino, suo merito è chapeau perché si è battuto come un leone. Va bene. Ed è quando vuole è qui invitato, sempre c'è un invito pendente per il presidente della regione De Luca. Dobbiamo fermarci, grazie caro Oscar. Viva Ruggeri a Sanremo, viva Ruggeri. Ruggeri, votate Ruggeri.